Ciao a tutti. Forse ci conosciamo tutti. Sono Claudio Solito, vengo da Calamandrana, sud dell'Astigiano. Viticoltori da sempre. Mio bisnonno faceva già sto mestiere qui, mio nonno faceva sto mestiere qui. Vengo da una zona che già nel 6-700 era proprio completamente vidata, quindi per noi la vite mi piacerebbe comunque che vedeste tutte quelle zone, quei posti, quelle colline, perché per capire cosa vuol dire per noi la viticoltura. Lavoro e opero dal 1980, prima in famiglia, in una piccola cooperativa che è la Viranda. Ha avuto un esordio molto felice dove si lavorava in tanti, poi col passare degli anni siamo rimasti sempre meno. Abbiamo praticamente cominciato a produrre in maniera rigorosamente naturale da fine anni 90, c'è stato proprio il passaggio netto, che poi non è stata una cosa molto difficile. Io ho avuto l'onore, il piacere e la soddisfazione di conoscere quello che facevano i miei vecchi. Non è stato anche molto facile, perché praticamente me l'hanno insegnato loro come si faceva. Quindi fino agli anni 60, fino a metà anni 60, si lavorava in un certo modo. Il vino si produceva in un certo modo, si faceva la qualità nel vigneto. E poi sono arrivati gli anni 70, la politica, i sindacati, devi aumentare la produzione, devi produrre di più, forse guadagni di più. Fino a quando arrivi a un certo punto che non sai dove vai a finire, quindi devi per forza trovare un punto di equilibrio. Allora lo fai per passione, per resistenza. Mi piace lo slogan "io tengo la posizione". Sì, io tengo solo la posizione, mi piacciono i rapporti umani, sono contento quando giro per il mondo e che spiego chi sono, cosa faccio. E quindi quando ritorni a produrre in un certo modo hai delle soddisfazioni enormi, personali, non certo economiche, perché non mi interessa arricchirmi. È un gioco, un bel gioco per me, è l'unica parte soddisfacente dell'attività. Però mai come in questi anni sto sentendo proprio il fiato di quello che è il tema della serata, il capitalismo finanziario, perché comunque è inevitabile, è una ruota che gira talmente veloce, la senti proprio che ti stritola, ti divora, ti prende un vigneto, una collina. Ormai ci sono aziende dalle nostre parti che sono 500-600 ettari, non esistevano anni fa. Da noi era una realtà di piccole aziende contadine a circuito chiuso, nel senso che si producevano da mangiare e vendevano parte della produzione, aziende agricole che ormai veramente ce ne sono da 500-600 ettari, era impensabile da noi, di agroindustria. Noi abbiamo la nostra grossa esigenza proprio di far conoscere al mondo e parlarne, discutere. Poi ci sono tanti amici che fanno il mio stesso mestiere, seduti sulle sedie, mi interesserebbe, perché oltre al far conoscere e le facciamo, si discutono in queste sedi, proprio la differenza netta di un'agricoltura contadina e un'agricoltura industriale. Dobbiamo proprio, sono due mondi completamente diversi. Quindi oltre al fatto di produrre in un certo modo è importantissimo, dopo tutto quello che hanno detto Fabrizio e Giuseppe, credo che sia molto difficile fare delle altre storie, però mai come in questi anni ci stanno dando addosso. Io credo che ci sia proprio in corso una politica di decimazione delle piccole aziende, perché se non ci sono interventi urgenti di sburocratizzazione, cioè devono pagarci la roba per quello che vale, non devono darci contributi di nessun genere. Questo io lo sostengo in tutte le sedi, in tutti i posti. Io devo vendere o l'uva o il vino per quello che vale. Non posso vendere l'uva a 30 centesimi il chilo per poi prendere per il PSR o perché fai il biologico una manciata di migliaia di euro che metà te li fotte il sindacato, che non è un sindacato, ma evidente. Quindi dobbiamo fare delle piccole organizzazioni parallele, quasi clandestine, per discutere io, Fabrizio, Alessandro, quando ci troviamo, o tre o quattro, fare il coordinamento contadino di sei contadini in Piemonte. È anche difficile questa... Sì, resistiamo, però la vita è molto difficile, perché quando hai un sindacato agguerrito, un sindacato che persegue un'agricoltura industriale, si vanta di avere tra i suoi iscritti tutta una serie di grandi aziende che gli fa consulenza, figuriamoci. Quindi continuano a, comunque a professare i loro tecnici, la produzione indiscriminata, l'aumento di produzione annuo, perché se non arrivi a 20 ettari, poi se non arrivi a 30, poi se non arrivi a 50 non ce la farai mai. Ma è una chimera, una storia infinita. Quindi è difficile, è una guerra costante e continua, e quei pochi spazi che abbiamo in giro, per compresi gli spazi sociali, che sono forse la parte più bella per i rapporti umani, per conto mio. Quindi ritengo che dappertutto dove andiamo dobbiamo rimarcare queste cose. Una cosa in merito a quello che diceva Giuseppe e quello che dicevano nel filmato. Ultimamente mi piace andare a vedere vecchi personaggi, cosa dicevano, cosa scrivevano, come pensavano, e mi sono interessato. Mi piace la questione agraria, quindi in un momento capitalistico come questo, dove nel filmato dicevano che non è aumentata la produzione, qualcuno diceva che non sfameranno mai il mondo, c'è un vecchio comunista italiano che era un comunista, non uno stalinista, si chiamava Amedeo Bordiga. Nella sua questione agraria lui sosteneva che nessuna merce sfamerà il mondo. Ragazzi, oggi tutto quello che si produce è merce, non è un prodotto alimentare, è un prodotto che deve, oltre che dare soddisfazione, nutrire e non farti morire. Quindi nel 1920 Amedeo Bordiga, che era un illuminato comunque, sempre stato emarginato, forse perché era molto più bravo di altri, diceva che nessuna merce sfamerà il mondo. E lo sapeva perché passava dall'analisi di Marx, è andato avanti e ha capito che le merci non sfamavano il mondo, perché, e comunque mai le multinazionali hanno sfamato il mondo, e neanche l'agroindustria sfamerà il mondo. Riempiono le pance per non fargli fare la rivoluzione, ma non sfameranno mai il mondo. Io però questa sera, oltre a presentarmi e dire due miei pensieri, mi piacerebbe proprio vedere la parte che è quella che mi interessa di più, perché lì ci c'erano dei punti di autogestione, di rete, di rapporti, che sono quelli che secondo me dovremmo comunque cominciare a parlarne seriamente e svilupparli, perché il rapporto della sera prima della terra trema, che stasera se ci troviamo qui a fare un confronto possiamo ringraziare loro, ma noi che siamo produttori e contadini, secondo me certe cose dovremmo svilupparle in maniera molto più seria e concreta. Se non usciamo dal buco, se non usciamo dall'emarginazione, se non usciamo allo scoperto, ma in maniera seria, che io non lo so neanche cosa fare, però dobbiamo trovarci, parlarne e vedere cosa fare. Quindi io gradirei molto, visto che ho degli amici che sono anche, c'è Alessandro, c'è Michele, poi c'è tanti altri, noi dobbiamo comunque andare a casa questa sera con idee molto chiare e pensare a una prossima volta, non tra un anno alla vigilia, certo tra un anno alla vigilia della terra trema, visto che ci danno lo spazio, ci organizzano gli spazi e ci fanno gli incontri, noi veniamo, li vediamo volentieri, però dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare qualcosa di più e se possibile molto più concreto. Nessuno parla di noi, o molto pochi, tranne i rapporti personali che può avere Fabrizio, già siamo carenti noi In organizzazione, ma tranne i rapporti personali che ha ognuno di noi non siamo mai andati oltre, e questo è un problema difficile da spiegare e difficile anche da risolvere, ecco. Quindi ragazzi, vi ringrazio e spero che molti di voi interverranno, perché sono cose molto importanti e ritengono che debbano essere affrontate seriamente. Grazie.